cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, Margaret Mazzantini ci parla del suo ultimo romanzo, Splendore, storia di un amore gay. Film tratti da libri, La gente che sta bene, scritto da Federico Baccomo, ora al cinema con Claudio Bisio e Margherita Bui. Notizie e appuntamenti nel mondo dell'editoria. Oggi parliamo dell'ultimo romanzo di Margaret Mazzantini, si intitola Splendore, pubblicato da Mondadori. Un romanzo molto, molto toccante, struggente a tratti, come spesso capita nei romanzi della Mazzantini. La storia è la storia di due uomini, è la storia di un amore gay sostanzialmente. Questi ragazzi si conoscono fin da piccoli, poi la vita porterà insomma a separarli, però questo legame fortissimo d'amore profondo rimarrà in loro in tutta la vita. Margaret, partiamo però dall'inizio. Allora, l'io narrante e Guido, uno di questi due prima ragazzi, poi li vediamo crescere, e l'altro, il ragazzo di cui insomma diciamo si innamora, con cui ha questo legame che poi lo accompagnerà tutta la vita, è Costantino, che è il figlio del custode del palazzo. Insomma, Guido viene da una famiglia borghese e invece Costantino da una famiglia decisamente proletaria, insomma. Tu l'hai voluto narrare attraverso la prima persona, la voce di Guido, quindi la voce di un uomo. Noi vediamo tutte le sue riflessioni, le leggiamo, le comprendiamo, insomma ci immedesimiamo in Guido. Tu come hai fatto a prendere la voce di un uomo? Insomma, credo che per me la letteratura è come una sorta di esperimento continuo, quindi in ogni libro è come se io sperimentassi qualche cosa, perché sono la prima a non sapere, a voler sapere, a voler conoscere e a voler appunto imparare qualcosa. La prima persona mi piace molto usarla perché è molto intima, è ventrale, no? E quindi ti consente di, in realtà noi dei personaggi di un romanzo sappiamo molto di più di quello che sappiamo delle persone della vita, no? Perché nessuno si confessa in una maniera così totale, così sbilanciandosi di continuo, proiettandosi di continuo in avanti, no? Cercando appunto, come dire, gocce di splendore che attraversano la vita dei due personaggi. Poi per me non sono personaggi, ma sono oramai, come dire, compagni di vita, insomma, perché si sa quando uno scrittore si dedica alla scrittura. Ecco, tu quanto ci hai messo per scrivere questo romanzo? Ma sai, io penso sempre che al di là del tempo della scrittura, in realtà c'è poi un tempo, c'è un tempo, sì, insomma, per me è come se tutto intorno scrivesse, quindi insomma, come dire, arrivano tanti echi. Come io conosco bene il momento nel quale io decido di mettermi a scrivere, quel momento è un momento proprio di totale isolamento, un lavoro che richiede proprio quasi una sacralità, per cui in realtà mi chiudo in un luogo e ricerco quella verginità iniziale che uno sempre cerca, perché poi in realtà avventurarti in una nuova storia è comunque avventurarti, come dire, in un territorio vergine dove tu cerchi di mettere le prime orme. Infatti tu alla fine del romanzo, nella parte dei ringraziamenti, ringrazi i tuoi figli proprio per le tue assenze, insomma, per quando non ci sei stata e ti sei dovuta dedicare alla scrittura totalmente. Sì, perché poi insomma comunque la stesura vera e propria è durata un anno, ma credo che come al solito è un romanzo che avevo dentro di me. E far parlare un uomo è come dire, per me è sempre una sperimentazione, quindi è come far parlare l'altro da te, no? Però poi in realtà questa è una storia d'amore, di un amore che attraversa un'intera vita. Ad esempio, io questo all'inizio non lo sapevo, in questo senso io scopro mentre scrivo, all'inizio pensavo che sarebbe stata una sola estate, appunto un'estate di splendore, no? In cui c'è questa iniziazione sentimentale, in cui i due ragazzi, appunto di due ambienti sociali così diversi, io sono partita appunto da questo cortile, da questo luogo che riunisce queste vite, da una parte appunto il figlio di un portiere, quindi un ragazzo che vive appunto nell'interrato, no? Che si porta dietro un odore di substrato, di una figura più sofferta, più carnale, quella di Costantino, e dall'altra parte invece questo ragazzo borghese, stravagante, ma assolutamente abbandonato a se stesso, da una famiglia alla fine anaffettiva, e quindi con una grande solitudine. In realtà sono due solitudini che si incontrano, sono due ammaccati, ecco, perché poi alla fine i miei personaggi, i protagonisti di mia storia d'amore, sono sempre un po' sghembi, hanno sempre una zoppia, qualche cosa di... Ma io alla fine ritengo che sia questo che ci rende profondamente noi stessi, cioè tutte le imperfezioni, tutto ciò che magari a noi ci fa profondamente soffrire, in realtà ci rende unici, no? E quella è la nostra unicità, quindi l'unicità è l'imperfezione, e loro sono due imperfetti, due ammaccati, e quindi insieme cercano come di ricostruirsi, ecco, in questo senso poi al di là della identità sessuale, però è come dire un cammino di ricostruzione. Fa molta tenerezza il personaggio di Guido quando lo vediamo da piccolo a questa madre, questa madre assente, insomma, che lui desidera ardentemente che lei appunto torni a casa. Lui studia, fa i compiti seduto proprio per terra accanto alla porta di casa perché non vede l'ora che sua madre torni, ascolta qualsiasi rumore dell'ascensore che sale, la porta che si chiude. Sono profonde queste due solitudini di questi due ragazzi. Sì, c'è molto questo senso appunto della solitudine, del vuoto, dell'attesa. In realtà è un romanzo sempre sospeso, no? Un po' le nostre vite, come sempre nelle storie d'amore, in cui ti aspetti sempre il meglio. E comincia così, in realtà questo ragazzino appunto studia vicino alla porta di casa perché da lì arrivano i rumori del mondo. I rumori di tutto, no? E quindi sì, c'è questo profondo senso di solitudine. Poi si incontreranno queste due solitudini in maniera travolgente, in maniera pur negandosi, perché poi alla fine è una storia d'amore con tanti ostacoli. Ecco, non è una storia d'amore appunto semplice, non solo perché è una storia d'amore gay, ma proprio perché non tutte le storie d'amore sono semplici. Loro due appunto si conoscono perché Guido e Costantino abitano nello stesso palazzo, frequentano la stessa classe del liceo, poi a un certo punto prenderanno due strade diverse. Quando però si accorgono che quella che è semplicemente così un'attrazione in realtà è un legame profondo che li unisce. Sì, non so esattamente come è così, cioè, mentre la vita va avanti loro hanno una mancanza. In realtà tutti i miei romanzi parlano di questo, cioè di una mancanza, e si muovono tutti intorno a un vuoto. In realtà questo vuoto cresce con gli anni, questa fame si spalanca sempre di più, è una fame aperta quella che ti spinge a cercare, no? A cercare l'altro. E quindi in realtà cercano di separarsi, ma poi non ce la fanno, perché rimane sempre questa memoria, che è poi la memoria del luogo originario dell'amore, dove qualche cosa di ustionante è accaduto, e loro sempre lì tornano a questa memoria iniziale. In questo senso amore purissimo, sono, come dicevi tu all'inizio, sono due insomma personaggi struggenti che hanno sempre questo desiderio di bellezza, di splendore, appunto, quindi di ricostruire, perché poi alla fine in una storia d'amore tu negli occhi dell'altro cerchi, come dire, te stesso innanzitutto, cerchi l'immagine più splendente, più luminosa di te stesso. Quindi credo che alla fine è un libro molto contemporaneo, ipnotico, stravagante, perché poi cambia molti luoghi ed è anche molto scansonato, perché poi insomma segui appunto, come dire, questo filo intimo, no? Quindi è veramente la vita di queste persone nel corso degli anni, che poi sono vite molto diverse. A un certo punto Guido andrà a studiare a Londra, si sposeranno ognuno per i fatti suoi a un certo punto della loro vita. Però è un amore purissimo, ecco, alla fine è un amore purissimo questo amore tra, insomma, quello che mi hanno detto le persone, diciamo, adesso i primi riscontri, perché naturalmente il libro è appena uscito, però insomma questo senso di riconoscersi profondamente, ecco, perché poi credo che poi le storie d'amore sono tutte dissimili, però alla fine c'è, come dire, c'è come un ritrovare, un riconoscersi, no, nei grandi passaggi. E questo, come dire, è questo amore, è un amore che accompagna tutta la vita, ed è un po', credo, anche un desiderio di ognuno di noi. È bello avere un amore che comunque permane, che comunque rimane, no? E chi ama dura, ecco. Guido è quello che ama, forse Costantino è quello attivo in questo senso, che è la voce narrante. Lui ama e amerà fino all'ultimo giorno della sua vita, e questo amore è lo splendore, è questo senso di vita, questo senso di futuro che lui comunque ricerca. Perché però hai deciso di raccontare questo amore profondo e lacerato da parte di due uomini? È un amore in un certo senso assoluto, cioè non conta molto che siano due uomini, un uomo e una donna o due donne, ma perché hai deciso che a viverlo fossero due uomini? Sì, esattamente, non lo so, credo appunto perché per me poi alla fine tutta la vita è una lunga ininterrotta storia d'amore, che poi tu puoi cambiare così il mio amore per la letteratura. Quindi scrivere una storia d'amore è, come dire, è proprio un omaggio a tutto quello che in qualche misura hai raccolto in quel momento e vuoi cercare di esprimere, no? E quindi anch'io mi spingo con i miei personaggi sull'orlo di un baratro, e anch'io cerco con loro la stessa bellezza, lo stesso incanto, lo stesso stupore. E per me appunto ogni storia deve suscitare tanto in me una curiosità, e quindi mi piace sempre sperimentarmi con qualcosa che non conosco, che non so. Quindi un uomo è completamente, come dire, io sono una donna, e gli uomini hanno spesso scritto delle donne in prima persona, insomma, certo. In questo caso è chiaro che l'azzardo è grande, però alla fine per me l'unica cosa che conta in questo mestiere appunto è assumersi dei rischi, è giocarsela tutta fino in fondo e non perdere mai quel gusto anche gioioso, perché comunque parto sempre da un sentimento di ripeto, di stupore, di incanto, della voglia di smarrirmi. Insomma, non c'è una denuncia sociale, questo intendo dire, cioè perché in questo momento della tua vita un amore gay? Io non sono un sociologo, non penso mai a una tesi, non penso mai a un significato, nel senso sono un romanziere e mi lascio trascinare da una storia e quella storia mi prende la gola. Poi naturalmente io credo sempre che come tu racconti le storie, il come naturalmente che fa la differenza, il come è la scrittura, e quindi quello è, a me piace la scrittura, quindi in qualunque, cioè io devo trovare semplicemente un canale, dove un cuneo dove riuscire a infilarmi per riuscire a cercare a mettere tutto cioè a, come dire, quella, tutto quello che ho accumulato e quella sorta di turbamento profondo che sento e che in quel momento sì, e poi naturalmente però in questo senso poi magari tante volte poi il mio libro ho scritto della Bosnia, ho scritto della Libia, adesso scrivo di un amore omosessuale, quindi sicuramente poi c'è come un essere spalancati nella realtà, no? Quindi sì, è la capacità di prendere sempre come dire quella ma non quella c'è un cosa. Pensiero ecco, un pensiero iniziale di dire scrivo una storia da un omosessuale, in realtà ho pensato a questi due ragazzi così diversi, sentivo che c'era un'attrazione ma non sapevo che poi sarebbe, capito, diventato quello che poi è diventato il romanzo. In questo senso è come se io ogni volta leggessi qualche cosa, tirassi giù un muro e leggessi già un libro, che io a volte quando sono depressa e dico Margaret non ti preoccupare, il libro già c'è anche se non è scritto nulla, da qualche, è come lo scultore che vede il blocco là di marmo e dice no ma la scultura è già lì dentro, devi avere, perché in realtà devi provare a farlo, ecco io credo che il gesto artistico è un gesto che si fa e basta, non devi ragionare tanto, cioè devi come avere uno slancio grande, io questo ce l'ho, ce lo metto con tutta la forza, tutta l'energia, poi non è che sempre ce la faccio, però non importa, perché se non mi diverto io per prima, se non rischio qualcosa, anzi se non rischio tutto, non ha senso, e credo che i risultati vengono proprio da questo essere allo sbaraglio, cioè da questo buttarsi comunque. Flannery O'Connor, che è una scrittrice che ho amato molto, dice una cosa molto bella, dice la letteratura, la vera letteratura si occupa dell'umanità e le cose umane sono fatte di polvere, di fango, e se tu non ti vuoi impolverare, non vuoi rotolare nel fango, non ti vuoi sporcare, non puoi fare letteratura, ecco insomma sono parole sante e benedette, io credo che ogni volta è questo, cioè per me è veramente la lotta ad un gladiatore, vado là e ci provo fino in fondo, non è detto che ce la faccio, o come dirò tanti lettori militanti eccetera, anche tanti detrattori, ma insomma quello fa parte del gioco, insomma, del mondo dell'editoria e della letteratura. Prima citavi la scrittura, io ho trovato in questo splendore una scrittura leggermente diversa dai tuoi precedenti romanzi, meno metafore, meno costruzioni sulle frasi, una scrittura più netta. È perché è un punto di vista maschile o perché hai voluto così fare un cambiamento nel tuo stile? Io non ho mai un atteggiamento, come dire, che ragione decido di fare una cosa dominante, però in realtà a me non piace dominare, io credo voglio essere completamente libera e voglio che la materia si liberi, d'altra parte è una materia psichica, immaginifica, completamente che deve andare sbrigliata, quindi io non posso, sicuramente è un percorso, quindi in questo percorso io muto e sicuramente oggi sono molto più, probabilmente se ci sono due aggettivi uno lo tolgo, probabilmente tengo quasi solo le cose, non mi interessa più, mentre magari all'inizio quando comincio a scrivere probabilmente ti innamori di un aggettivo o di un pensiero e lo trattieni, e invece adesso laddove vedo un po' di cascame vado subito via a toglierlo, quindi e poi insomma è un libro che è venuto così, tra l'altro la mia scrittura è molto sorgiva, non sono una che poi fa chissà quante rielaborazioni successive, quindi è venuto così proprio di in botto. Realtà sì, però è sicuramente una prosa più stringata, sicuramente questo è sì, più netta proprio l'ho trovata, sì, si sente sempre lo stesso scrittore però si sente, sì, un'evoluzione, certo. E poi però è vero anche che ogni mio libro è completamente diverso, cioè è tu vero. Riconosci come dire quel mondo lì, però ogni libro è un passaggio e così sarà fino alla fine, perché sennò ripeto sono io la prima a dire basta, perché se mi annoio io non penso devi di fare poter, lo stesso libro per tutta la vita, non vale la pena, le librerie sono già molto ingolfate, purtroppo, quindi non abbiamo sì. Senti, tornando ai due personaggi, a Guido e Costantino, ovviamente non possiamo svelare molto della trama perché insomma si segue tutta la loro vita, i loro incontri, il loro ritrovarsi e ovviamente non diciamo nulla della fine. Però in questi due personaggi, secondo te prevale più il coraggio di vivere un sentimento forte o invece l'incapacità di riuscire a fare poi delle scelte di vita profonde? In realtà Guido è più libero, Guido sarebbe più pronto, la voce narrante sarebbe più pronta, un ragazzo appartiene a un altro mondo, l'altro appartiene a un mondo più umile, ha dei retaggi d'altro tipo, quindi ha come una zavorra, qualche cosa che lo trattiene, e in più dopo scopriremo che ha anche un trauma molto più grave, mentre Guido comunque è pronto, poi Guido vivrà a Londra, quindi avrà una vita molto, quindi sarebbe pronto ad affrontare la parte oscura, ha meno paura delle tenebre, cioè di quello, perché lui nelle tenebre gli sembra invece trovare il vero splendore, come spesso accade, la nostra parte, quella magari socialmente totalmente impresentabile, quella che ci fa, che ci preoccupa di più, in realtà è quella più avventurosa, quella dove invece, come dire, vibriamo in maniera più autentica, mm-hmm. più forte, no? E questo è spesso così, tutto ciò che un po' ci spaventa di noi stessi in realtà magari nasconde invece il nucleo più sincero, quello più vitale, quello. E quindi Guido è, come dire, ha voglia di essere sempre ridestato, quindi è sicuramente un personaggio sempre allerta e sempre. Costantino invece mette molto dei freni, insomma. Sì, Costantino vive più nel ricordo dell'altro. Anche perché noi poi, insomma, alla fine vedremo anche un po' il punto di vista di Costantino, ma in realtà seguiamo sempre solo il punto di vista di Guido. Perché il punto di vista è di chi ama forsennatamente, disperatamente, giocandosela tutta, e quindi Guido mette a repentaglio tutto, ogni pensiero, ogni momento, e quindi c'è un continuo, e questo è bello, è come seguire un'onda, un mare che cambia, no? Che racchiude la tempesta e poi precisamente si placa e poi di nuovo invece succede qualcosa di incredibile, quindi c'è la profondità, c'è il brillio invece della luce più bella, della superficie più luminosa, cioè, credo ci sono tutti i colori della vita. Domanda netta, Margaret: Splendore diventerà un film? Bisogna chiedere. Fatale la domanda, perché ovviamente, sì, avendo Sergio come marito, eccetera. Quindi, Sergio Castellitto, sì. Lo ricordiamo, che poi insomma ha interpretato ed è stato il regista dei film tratti dai tuoi romanzi, Non ti muovere, Venuto al mondo, quindi insomma. Anche questo ci avete già pensato? Assolutamente no, per il momento no, è un'idea lontanissima, no, perché poi in realtà appunto io poi faccio letteratura, poi se la fatalmente non cedo i diritti d'autore ad altri, io sono una raccontatrice di storie, quindi i miei libri si prestano, perché ogni libro, e quella è una cosa, come dire, che anche quella viaggia con me, perché io ripeto, è come se io pensassi sempre, come dire, sia la storia, perché quella è il traino, ecco, perché facilmente puoi disperderti, no? Allora comunque quello è il filo che ti tira, per poi metterci dentro tutto quello che ti sta veramente a cuore. E questo, in questo senso questa storia mi ha proprio permesso di fare questo, ripeto, è una storia di una vita, però in realtà si svolge in 300 pagine ed ha ad esempio dei momenti, come dire, in cui gli anni rotolano, come capita per tutti noi, no? In cui 10 anni di vita non te li ricordi, li hai proprio. E poi c'è un episodio invece che ti rimane impresso per sempre. Sì, che si dilata e diventa quello che l'episodio, come dire, com'è nella nostra vita, no? Perché ci ricordiamo magari quel momento traumatico, mm-hmm. quel momento bello, quella cosa, quel momento di ricompensa, e allora quello lo possiamo dilatare all'infinito, no? E quello è il tempo poi della narrazione. Il tempo, insomma, della meraviglia, dello stupore. Grazie a Margaret Mazzantini, ora in libreria con Splendore, pubblicato come sempre, come tutti i suoi libri, da Mondadori. E Margaret Mazzantini, come avete sentito, non è ancora certa che da Splendore verrà tratto un film, insomma, però si accettano scommesse, diciamo così, io scommetto che si farà un film da Splendore. Effettivamente, tra l'altro, sono tanti in questi ultimi anni i film che vengono tratti da romanzi. Il 30 gennaio, per esempio, uscirà nelle sale La gente che sta bene, film per la regia di Francesco Patierno, con Claudio Bisio, Diego Batantuono e Margherita Bui. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Federico Baccomo, pubblicato nel 2011 da Marsilio. In questo libro, La gente che sta bene, il protagonista, che appunto nel cinema viene interpretato da Claudio Bisio, è un avvocato d'affari milanese, veramente antipatico, odioso e arrogante, cinico, il tipico tipo che ama frequentare gli ambienti chic e se ne vanta. Ma lui stesso, che insomma nella vita licenzia i suoi dipendenti con sarcasmo, alla fine sarà fatto fuori dallo studio legale dove lavora, e che ovviamente gli dà prestigio. Da qui insomma inizia poi tutta un'altra storia. Il film riproduce l'ironia amara e la comicità caustica del libro di Baccomo, che è anche sceneggiatore appunto di questa pellicola, ed è lo stesso scrittore che ci racconta come si è arrivati dal libro al film. È stato un passaggio molto benedetto, se posso dire, perché a parte l'interesse iniziale dei produttori per il film, la prima persona che ho incontrato nel progetto è stato il regista Francesco Patierno, ed è nata una di quelle sintonie che è come nell'alchimia: ci sono degli elementi che funzionano insieme e degli elementi che, per quanto può insistere, non funzionano, e noi insieme abbiamo subito cominciato a girare bene, e a quel punto diventa tutto più facile, l'adattamento, le modifiche e tutto il resto, ed è venuto un film che è davvero un'altra parte di quel romanzo lì, proprio gli stessi occhi, con tutti i punti di vista differenti di un film, ma esattamente quella cosa lì, per cui è stata davvero una gran fortuna per me. Già dal tuo primo romanzo Studio Illegale era stato tratto un film, adesso anche da questo secondo La gente che sta bene. Che impressione ti fa vedere appunto al cinema un tuo libro? Lo vedi un po' come, insomma, non dico un furto, ma insomma una cosa che ti è stata strappata, o ti ci identifichi? Ma mi sembra più come quelli che sono gelosi quando gli altri li guardano, la ragazza anche solo in fotografia, finché c'è, è tua la ragazza, va benissimo, se anche uno te la guarda che male ti fa, può anzi lusingarti come cosa. E in questo caso poi il rispetto che hanno portato per il libro fa sì che allarghi appunto il punto di vista che è nato con le mie parole, per cui è proprio un qualcosa di emozionante, ma nel vero senso della parola, non quelle cose che dici un po' tanto per dire, un'emozione reale. Io guardando il film ho riso quando c'era da ridere, mi sono messo a piangere quando dovevo piangere, per cose che io ho scritto anni fa, e significa che le hanno rivitalizzate. Questo mi sembra una gran benedizione, come dicevo prima. E come dicevamo, in La gente che sta bene il protagonista è interpretato da Claudio Bisio, che così racconta il suo personaggio e il rapporto che ha avuto appunto con il romanzo da cui è stata tratta la pellicola. Quando io sono nella parte arrogante, quando tratto male gli altri, per esempio mi viene in mente la prima scena del film, Bella Lunga, dove io licenzio uno mio sottoposto, è proprio emblematica di come scrive Baccomo, di come ha voluto girare Patiano questo film e di com'è il personaggio. Cioè una specie di tutto in punta di fioretto, no? Ma le cose che gli dico, ma anche le situazioni, insomma, cioè, devo scegliere due cravatte, due colori, dico, ma tu quale sceglieresti? Me ne indica una, io mi metto l'altra, no? Oppure gli comunico che, ma scusa, sbaglio, oggi non è il tuo compleanno? Sì, mi dice lui, vedi, sono stato io a scegliere, perché gli altri volevano licenziarti settimana scorsa, che stupidi. Quindi dice, no, questo l'ho fatto oggi, così stasera vai con gli amici, ti distrai, anzi dove vai, vengo a trovarti. Quindi mentre lo sta licenziando, quindi è... Insomma, è una scrittura e quindi un tipo di comicità quando c'è comicità o non quando non c'è, molto diverse dagli altri film che ho fatto fino adesso, quindi perché non farlo? A proposito di scrittura, tu ti sei rapportato alla sceneggiatura ovviamente, ma in questo caso c'era anche il libro. Tu come ti sei comportato? Hai letto il libro? Avevi già letto il libro? Come hai interagito con il testo? Beh, la prima volta mi fece leggere il libro Patierno, il regista, che non so se aveva già acquisito i diritti o stava per farlo, dicendomi cosa ne pensavo. Quindi la prima cosa, ho letto il libro subito e mi ha divertito tantissimo, perché proprio anche leggendo il libro ti ridi, almeno è la comicità che piace a me, davvero un po' inglese, un po'... A me ricordo un altro amico con cui ho lavorato tanto tempo, Walter Fontana, quella comicità molto arguta, ma che... Poi sai, per uno come me che di comicità ne mastica, anche leggendo libri o sceneggiature raramente rido ad alta voce leggendo. Quella è una delle volte in cui mi è successo, per cui ho detto, ah, caspita, ci siamo. Poi ho seguito le fasi, la sceneggiatura l'ho scritta... lo stesso Patierno regista e lo stesso Baccomo autore del libro, però io ho seguito tutte le fasi, devo dire è stata molto fedele al libro tutto sommato, c'è solo un finale un po' più positivo nel film rispetto al libro e basta, poi il resto i personaggi sono quelli, sono stato asciugato, che 300 pagine di libro in un'ora e mezza devono essere comunque un pochino asciugate, ma c'era anche una bella storia, una bella trama, bei personaggi, mia moglie Margherita Bui eccezionale, quindi ho seguito pezzo per pezzo le fasi sceneggiatura, ma con grande rilassatezza e serenità. E da Claudio Bisio e La gente che sta bene passiamo ad altri romanzi che hanno ispirato film che in questo momento appunto si trovano al cinema o arriveranno fra poco. È uscito qualche giorno fa in libreria Storia d'inverno, un romanzo romantico dell'americano Mark Halperin, pubblicato in Italia da Neri Pozza, ed era stato scritto addirittura nel 1983. Era uscito una prima volta in Italia intorno al 2000 per Frassinelli, ma ora questo romanzo Storia d'inverno è stato ripubblicato perché sta uscendo appunto il film, in contemporanea con il film. Da questo romanzo è stato tratto l'omonimo film con Colin Farrell, Russell Crowe, che sarà al cinema in Italia dal 13 febbraio. Altro film legato a un romanzo è Anita B di Roberto Faenza, uscito nelle sale la settimana scorsa. È tratto dal romanzo Quanta stella c'è nel cielo di Edith Brooke, che è stato pubblicato in Italia da Garzanti nel 2009, ma ora viene naturalmente riproposto con, insomma, la tipica fascetta che indica il film e si trova ovviamente facilmente in libreria. Racconta la storia di una ragazza ungherese, Anita appunto, che sopravvive al campo di concentramento e deve raggiungere una Venezia, in Cecoslovacchia. In questo viaggio sarà accompagnata dal cognato della zia. Prima di chiudere vi ricordo un appuntamento importante per i librai e per gli addetti ai lavori appunto del settore dell'editoria. Da martedì 28 gennaio a venerdì 31 a Venezia c'è il consueto seminario di perfezionamento organizzato dalla scuola per librai Umberto ed Elisabetta Mauri. Si affronteranno come sempre vari temi del settore, fra cui l'editoria digitale, l'uso dei social network in libreria, e si affronterà anche il tema dell'editoria del futuro, dell'editoria scolastica e delle librerie. Anche per oggi è tutto. Grazie a Marta Cagnola per l'intervista a Claudio Bisio e per la regia Paolo Corleoni. Come sempre mi trovate su Facebook, su Twitter come Ale Teddina, o potete scriverci a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.